Nessuno? Vola canale 7. Chi è là? Chi è là? Vabbè, Antonè. Ciao Marco. Sto rientrando a casa. Sono Michele Pallottone, sapete. Mi senti? Ehi, ma sei a piedi? Un attimo che sono in radio, dai. Cazzo a piedi? Sono in macchina là. Ammacciato in cassa. È bombolo. Attenzione Antonello. Chi è? Avanti. Buonasera Graziano. Ciao Marino. Fammi un controllo in questo passaggio, Graziano. Sia del radio. Fai passaggio. Controlla 1, 2, 3, prova. Arrivi bene. Fai l'altro passaggio un po' più lungo. 1, 2, 3, prova. 3, 4, 5, 6, 7, avanti. Va bene, si sente abbastanza bene, chiaro e forte. Però è una posizione, se lo metto dritto ti porti QRM appresso. Lo so, è difetto, capito. Comunque, adesso l'ho puntata verso la Monte Oro, dai. L'ho girata stasera e ho sistemato anche l'altra, tutto a posto, ok. Va bene, riprendo dopo, grazie, dai. Ehi, sto salendo adesso da campagna, è in campagna. E ho visto, campagnolo come sei, sei un campagnolo, sì. Ehi, che oggi mia figlia stava tagliando l'erba, adesso domani fa l'altro effetto, la metà. Piano piano già l'effetto. E poi non me l'ha mandata la fotografia però. Non te l'ha rimandata a me, figlio, la taglia in diretta. Su WhatsApp, aspetta che guardo, ma penso che te l'ho mandata, la zitta, vai tu. Giovanni? Dimmi. Buonasera, una cortesia, poi sul 23, poi puoi passare, mi dai un controllo di segnale, fammi la cortesia, che ho tutto sistemato, come se stavo uscendo come prima. Ah, io ti sento come così, forse ti senti più bene di Graziano. Va benissimo, sei a fondo scala, perfetto. Solo che quando Graziano ti ha chiamato non ti sentivo io. E tu stavi a parlare con Graziano ma io non ti sentivo, ti ho sentito adesso io. Lo so, una cortesia, sul 23 puoi passare Giovanni, che ti do, che mi dà un controllo di radio sulla 27. Fammi una cortesia Giovanni. Passa, è acceso qua, Qua è sempre acceso. Così, no, sai, è andato bene Mari, dai. Va bene. E ok, l'ho tutto bella ingrassata, l'abbiamo qualcosa, ho tutto grasso di vasellina. E già c'è un piccolo problema, c'è dentro, l'ho risolto, tutto qua. Bene, ok, riprendi Giovanni, io mi sistemo un po' di roba, già entro dopo, dai, avanti Giovanni. D'accordo, Mari. Ci andiamo dopo allora, dai, che mi è arrivato qualche cosa là, al telefono, ok? A Baida, chi fa giù l'operaio, chi ti l'ha giù mandato, Travallina, a Baida è a Coscia. E è vero. E beh, già la stai facendo la pacchia, già invece vieni a tagliarmi l'erba a me. Ah, bello bene, che già lo sai che io sono invalido. E tu gli dici pennialette di pollo e coscette di pollo arrusto. Come fai a saperlo? No, c'è anche pancetta. Stasera tutto condito, aglio e prezzemolo e peperoncino. No, stasera no, domani in campagna vedi tutto, salchizzoni, pancetta, bistecchi, capocollo, melanzane, pevaroni, un poco di tutto, beh. Ah, parisce dagli adurepa, parisalata. E allora, tu ne accorta di pietra, vabbè, mezza all'elba. Domani, prima di tagliare l'altra, mi dai, ne posso un poco. e fino a c'è dove è puro. Frecu, frecu, denaro, denaro, bella pei. Io danno. L'hai visto l'amico tuo che ha preso l'aereo? Ma non è lui che ha preso l'aereo, no? La giuvicinata Lala, Marina l'ha fatto la fotografia, Marina è posata dentro l'aereo, vedete, è nata Lala dell'aereo, adesso non abbiamo pagato il biglietto. E allora? Savani è andata a Olbia, come ti l'ha caricato la Marina? Ha furiato subito se si biglia, ve l'ha descritto, un minuto in bigli, se no fate ripatriare dalle carabinieri. Bebo. E mi ha detto mica non mi penso, Oh, qua te farà da Marina, ha furiato subito a Sassa. Manco all'aeroporto, all'entrata l'ha accompagnata, o sì, E ha visto che era in parcheggio, se che era in parcheggio. Poi non so chi l'ha accompagnata. L'ha visto solo, torna andando a pigliare l'autostrada. Un genio. Oggi okay, sì, non si ammettava la strada a Durrata. Voglio vedere Marci quando torna a farsi la gatta la strada. Ehi, a fare un navigatore. Allora vale Remi, la cartina mi ha detto si ha fatto, la pianta, ma a carbone o a legna è questo fuoco, ma la pei. Ah, carbone. Paletta ha detto se ci inviti. Gli battevo un carrello di garri, tipo gomagni. La giunta mia cugnata in campagna, papà domani roba ora mi fai. Indovina cosa mi ha rifuso. Ma guarda, Zimino ti prepara domani, Zimino di rana. Allora mi ha rifuso, e chi su che fare giù? Così mi ha detto, te ne immaginate. Abbaia un poco se ti conosci me, abbaia un poco. La giunta la giuretta è oggi, è pisciata sotto. Ah, ok, tu arrechi solo un bagno a fa la russa e boh, un bagno da rimane. Beh, che ha detto c'è più buono quando non muori la gravidia. Vai guardati quei video che ti ho mandato, vai. Ah, va per la baizzo. Ah, è Johnny Maria sparito, Johnny Maria. Che ha fatto lui? Ecco, tenendo il boi, Se la maglia da rimane, ha detto, burro di boi. Ma la valascia nasce una zeppia, no? Ma hai visto quanti erano i mani? Io si rimane a due chiedi, tu. Cosa ti mi ha detto, dici, denaro, denaro, la succiatura, sai come ti zecci? Va, oggi rimane si mangiate i tentacoli, oggi si mangia un pezzo di capo. È l'unico che va pazza. No, che ne aveva due di boi, però hai visto. Ah, uno a tra rimane oggi e uno l'uni. E c'è quasi a Bruno. Cioè, è buono pure a Bruno. Bruno di volta è buono. Se poi ti fai dei capi là, ti si onda. Vai, guardati quei video, vai. Ciao, dopo adesso faccio una roba, ciao. E adesso me li guardo, da. Yeah, avanti. E beh, visto che era un filmino. Beh, io pensavo di acciappare a tagliare di lei, ma invece tu sei controllente e l'altro sono travagliente. Ma insomma, se Stati Uniti sono combattati imprenditore, io posso l'imprenditore, l'impresario e il dirigente. E poi lei però si taglia così, no? Ma si taglia a zero, no? Lo hai puntato la soli, io non credo che fa impresa così. Ti ha tagliato la pelle e basta. No, siccome è un po' alta, da non va la mano ancora, se devi fare la pratica. Adesso gliel'ho detto io a farla così, così fa di prima. E da poi domani continua l'altra che è alta ancora. Da poi tra tu di chieda, parla e la ripiglia. Ah, va, è da, si deve fare a mano. È un bealza. È un bealza, eh. E tu lascia se si butti l'elba. Ehi, già la giudice, se capi, mi pare che sa, 70 centimetri più, è di più puro, sa, mi sembra, infatti, bisogna affrontare la prima e da voi davvero. Da voi le prendi mie figliura, si va la mano, ancora in pareti. Una volta che ha pigliato la mano, gli ha fatto la taglia bene, però adesso, siccome è alta, gli viene male a lì, perché non è pratica. Mi ha fatto vedere come si fa. E poi appena avanti si è tagliato, si secca sopra gli dagli, non è tagliato da lei, e poi passa, torna da zero, e ci vede, poi uffo, quando è un pezzo posso così. Ma non sapete il tempo un bimbi. Capito, da mai te ne lascia travagliare, un primo, l'impresario. E allora, infatti avanti, devo pigliare una tutta. L'altro del cespugliatore devo avviare Paoletta. Dai, poi voglio a Paoletta. Tagli direi, bagatti. In tutta, è una maschera. E i capellini. E allora? Tutto il paparazzi ha virato, gli ha virato. E poi mi dico che la sei guardi, maschera, occhiali, i tappini ballareschi, la cuffietta, e gli stivali, allora. E la tuta. Tutti i macchiappini. Che coraggio che ha. Una capaterra. Avvio. Che coraggio a far travagliare da che per da paesetti, che c'è ma raggio comprensivo. Orru, dici che si muovi a Edo. Ciao Gio Mari, ciao Lore. No, c'è la sassica, chi? Che Edo non ne può fare Gio Mari, ormai non può fare più nulla Edo. Piano piano va domani, tutta la via a voglia, via chi fimmo. Te ne immaginate, travagliare tu, fa travagliare tu, che mi fa di te, che è una bella cosa che te lasci travagliare da mai detti, un maggiordomo. E allora le direttive svivono sempre, anche i traffici non vengono, il dirigente. Beh, il dirigente è un capo squadra, e il vostro dirigente è capo squadra. Poi io da giudizio, mandami la fotografia del cespugliatore e tutti mi fanno vedere a tu migliore travagliendi. Io volevo vedere il cespugliatore in fotografia, vedere come te, come tu è, grazie. E non te l'abbiamo mandata la sali prima di compararlo. Sì, non me la metto più, non dare lo faccio più, chissà. Ma batte la gente a mandarmi la fotografia. Domani ti la mando, intanto domani devo pulire la corda, la miscela, domani quando le posso la botta e ti la mando. D'accordo allora, va bene. Ah, va bene, ne giù un altro, a chi è un vecchio. È da cantegli ci che hai bigliato. Questo qui è no, 45, 43, ma non me la metto, 45 forse. E dove ci andrà bene, cazzo, abbastanza vanno. Va bene, dai, mandami la fotografia domani che le voglio vedere. Dai. Ma dai, se si può essere buono a che conto, se ne bigliamo due, grazie. No, perché sono già scontati, li sa, me li hanno messi in offerta. Ah. Di manco di chi ci non me ne dati, no. L'ha già scontato. Ah, così è. Allora, così come ti sentite tu, sono già scontati. Non finisco lo sconto. Vabbè. E tu quanto l'hai pagato, questo? Quello in tutto mi è venuto 150. Ah, già va bene, ah. 44, 45, già va bene. Già lavorano quelli lì, Quelli lavorano bene. Quello lì per mia figlia va bene, perché non è neanche pesante, è pesante. C'è la cinghia che fa incrocio, c'ha il coso in gomma, c'è per appoggiarti, si ce l'appoggia un fianco, c'ha nelle spalline, c'ha è ringrossato, fanno pisati, fanno i sciti in un segno della ginghia di fatti. Tutto umanitato, la maschera, e due boccette di olio che servono per misurino, un bidone da 5 litri e c'è segnata la misura, una candela, due boccette di olio, poi cosa mi hanno dato? Gli occhiali, le chiavi, la chiave della candela, le brugole. E dopo cosa mi hanno dato? E un po' da pulizia. Gli occhiali e la maschera. La tuta pure così è. No, la tuta chi sa, la recuperata, tre, vedi quelle tutte usaggetta, che vendono a labbri come. Ecco. Dotazione Adrien, la maschera no Adrien. Basta, è ripau, così è. Mi hanno dato la maschera, gli occhiali, quelli bianchi con matti. Tipo gli occhiali e la maschera, che ha retina. Poi mi hanno dato l'ufilo, quello a triangolo, arancione. Una matassa di quelle, mezzo grosso. Non lo so quanti metri sono, comunque una matassa, una candela, poi cosa mi hanno dato? Le chiavi, mi hanno dato due boccette di olio che servono anche a usarle per fare 5 litri di miscela, è tipo misurini. E poi cosa mi hanno dato? E poi non me la metto la manilata, va. Gli occhiali, la maschera, la cinghia. Ma quelle che danno in dotazione di solito, va. Già va bene. No, è un attrezzo che 44-45 va benissimo, dai. Va benissimo. Poi la macca già è stata di macca. Sì. E che si fa dire maturo, è maturo ma la so, che è un po' più pesante pure degli altri che faccio, però è più grosso, allora, non so, 155 che si fa, che fa dire magazzino, dopo mai idratato, che l'aveva abbinato in via del portatore, dai, si va fallito, e qua dentro la cattola è, non ha manco provato. Questo è maturo, ma sono sempre pesante, se vuoi stare tutta la vita camminando non si ferma mai. Allora, stamattina, 3 ore e mezza sempre andelli, ed era tranquilla. Poi l'ha giubata a Vimma, e l'ha messa da un'altra ora e mezzo andelli. Poi abbiamo mangiato, dopo mangiato, che ora erano le 2:30, ha cominciato. Pensamente arrivi come a qua che era sempre andelli. Ehi, vabbè, cazzo, no, che la puoi lasciare 3 ore e mezza, 3 ore sempre camminando, no? Quando camminava un'ora fino a metà troppo, la puoi far riposare, 20 minuti per riposare, poi dovrei ricominciare a davvero battersi. Così bisogna fare. No, è stato 3 ore sempre camminando, dai, l'imballi, capito? Passa un'ora fino a troppo, camminando, poi lo far riposare. Un quarto d'ora, da voi dovrei cominciare, capito? Devi riposare pure, no? Vabbè, 2 volte mi sono fermato, si è fermata per mettere... quanto è lungo? Pago, metterlo bene, insomma. Archimede. Scusura, è abbiato. Sono cazzo solo fu. È un bel lungo, Già va bene, già, Vabbè. Aspetta, grazie. E t'annato due. Il mio attore, mi. Sì. Mi vai Archimede, mi, grazie. Avanti, Archimede. Pitagorico. Avanti, che non ti ho copiato. Archimede Pitagorico. Non può cazzo esso, voi. Se non vedi il telefono, però, addio. Adesso lo guarda, aspetta. Cosa gli ha mandato Luca? Ali contrastanti? No, parava a fogazzese, buh. Oh, dei geniali che volano. E allora? Buonasera Gianmarie, ciao Luca. Ciao Tom. Ehi Tom, buonasera. Avvio. La roba del magnano è mandata a Graziano, me la vanno a finire in biume. E a te pure l'ho già mandata. Sempre. Vai, vai. Sempre, tira. E allora tu? Rientrato, sì. Sì, rientrati siamo. Luca, ma cos'è quella cosa di ieri? Quella verga di ieri? Verga? Boh, ieri mandatatelo. Mi ha mandato due filmati alle mani e quell'altro coso. Sì, allora sì. Te l'ho mandato anche adesso. Anche adesso? Aspetta che lo guardo. Cosa mi hai fatto vedere, Luca? Un fuoco era antenna. Sì, boh, ci pare già tu. Andiamo, andiamo. Boh, boh, Giomari. Inteso. Ma grazie a te, si gozami. Vai, che non male. Che vedi? No, non ha più compreso cosa hai detto. No. Ha mandato dalla foto, l'ho filmato, un fuoco e l'antenna. Ho spiedo. Aspetta, grazie, che hai sopportato a torre. Ho detto, Gianmarie, che mi ha mandato un filmato tra un fuoco e l'antenna. Non so cosa voglia fare. E te, va così già l'antenna allora. Poco, quasi, buoni l'antenna lo spiedo, con la radio attaccata. Ma te, chi ce la va a fare l'antenna con si resi? La griglia con l'antenna fatta va. Archimede, se la chiama l'archimede a chi su. Per carità, cacchi di bau. Poi anche il trocco di legna, mantenna, gatta. Sì, aveva la base russa, la base. E allora, aspetta. Chissà che lo sciabullo ti ha mandato, no? Quale? Oh, Luca. Dimmi. Ma quell'altro che il basamento è un bel grosso, quello era Sirio, così è. Ho fatto quella lì, quella lì, sì, esatto, uguale, l'ho fatta. Ah, ecco, ho capito. Quelli così sono anche per la marina pure, che è per lui. Sì, Gianmari, basta cambiare le misure e la puoi usare sia per uno che per l'altro, capito? Ai, ai, ai. Ho capito. Luca, cosa gli hai messo la carica dentro? Avevo pure di sapere troppo. Attacchiccio, Gianmari. Prima si buono in coso, si rifazzi, da poi buono in piegazioni. Catta, vuoi ricoppiare, capito lui, vuoi ricoppiare, capito? Le informazioni fallo bagatore. Se ne va una con Bacchisio, 20 centimetri, la data è 27, in PMR, in LPD, in banda marina, aeronautica, ha tutto l'hanno rifatta l'antenna, deve essere un miracolo. No, non è nulla di gozo, quella che ho fatto, che ho io. Adesso ad operare sia a 27 che nel PMR, basta. Vai tu. Da 27 MHz a 440, appena differenza, perché io non lo so, quindi è risonante che l'antenna, ma... misure stazionarie di 27, a vedere cazzo di guccia. Sicuramente non vedi misure stazionarie, ma cosa, secondo carro smetrovani, quelli si vedono in minimo 5 watt. Magari li vedi in zero, e sono convinti che non è stazionario. Ricezione magari già andare, ma in trasmissione usare tanti cazzi. Oh, è proprio fuori banda, Gianmarino, non puoi trattare la bauna e pallasso. Fuori banda sì, la rugrida. Appunto, ma chi ci sono che senti che si cagli un me perché è pieno di stazionaria. E il burro si attacca un filo alla ringhiera, mi intende un attessi. Ma come ti andendi però? Chi su è? Fuori. Sì, abbiamo la ditta noi qua, per le antenne. Certo. Comprate. Non ti rispondere, no. Grazie. Graziano è andata a recuperare i bicchetti. Sorpresa. Rimane la tutta le taglie di erba, la figliola però è da mai denti. Fai così, fai là. Chi lo può fare? Ah, Giomari, caro, può fare un vaggi. A buonasera, tutta le taglie di erba, rimane, capito? E invece la sono taglie di lasseri, e due a mai denti, sicuro. Così è dell'orto botanico. La signora consigliere da mai denti e assaggenti. Cata, invece Luca che ha fatto così, consigliere ma niente, così è lui. Epa! Ah, che dai, non si chiamava Lurre, cata di allucini. Cos'è, bello bene, illuminami. In antichità non c'era il re che dava ordini. Sì, un capomastro qui, che la si arruge, un capomastro, fa chi c'è fa il sastro, è il presaburo, catta, cade un marionigra, fra lì, due sussinci a capomastro, catta, paccare dai, catta, una vera è bigliato a roccia tutti e due, catta, sono fuggiti. A me una volta è giunto uno a travagliare in falegnameriano. E il principale mi aveva detto, mi deve venire questo falegname così così, fagli vedere cosa deve fare. Quando è giunto qui sulla giubbata, vedi cosa devi fare, se girate mi fa, di fare cosa sei, l'unico culo del principale è lui. Ha detto, no, veramente mi ha detto, cosa devi fare, chi sei che devi fare, se lo vuoi fare lo fai. Allora ha fatto, ha peggiato, non vedi se ne è andato. Ciao di Gabbo. Ehi, attore. Grazie. Cosa vuoi fare? La gente che andava da bardare in faccia ti dice, beh, fa una cosa. Stati in chi vende sì. E piglia il bene se ne anda. Sì, insomma, ho capeggiato il bene se ne è andato. La gente è bene, ho cominciato, no, ma lo sto andando. E poi cosa devi andare? Che mi sono cantando, ciao, arrivederci, cazzo. Arrastati di pitto. Vuol dire che non aveva gana di far nulla, chissù. Ma che? No, mi assento un attimo un poco, dai. Ripeti tu. Sì, già siamo qua. Luca, beh, pronti siamo. Appena entrini, a te lo devo dire cosa mi ha detto a dire. E la giudizio che mi ha detto non potete fare. E poi tutti vanno io mi posso rumire, o no? E infatti. Devi andare così, invece ha preferito andare a Sini. E vedi non interessava niente. Allora, se mi pare a mezzo scemo, dalla faccia mi pare. Sta di tu mi sei andato, mi sono cucciato, arrivederci, cazzo arrastati di qui. Ha ripigliato un telefono e l'ha giù telefonato, tu gli ho detto quello che mi ha detto di dirgli, gliel'ho detto, ha girato la spalla e se n'è andato. E mi ha detto, avessi ero l'ulinghezzo in culo d'olio. Chi c'è macca giusto? Sì, meglio così che se ne sia andato. Come te gli dà? Invece di venire se ne è andato. Grazie. Eccoci un'altra volta, mi rimanda a Frappicamura e mi ha detto un principale mio sempre, ma telefono. Quando viene quel muratore, grazie a gli ci sali col muletto, il catrame sul tetto e poi già si arrangia lui. E quando è giusto che c'è altro, l'ha già fatto come ti mi ha detto, l'ha giusto che c'è altro, io te lo salgo col muletto e te lo metto sopra il capannone e poi sali da lì con la scala e ti pone il catramo, io sto lavorando giù in falegnameria e non lo posso fare oggi. E vabbè, sazza, li dovrà farà. Oh, mi chiama, e cosa c'è? Niente ti serve. No, me ne sto andando, te ne sto andando. E perché? Io voglio un altro aggiudarmi. Cazzo, ma c'è barricati un altro, cosa vuoi da me? Certo, che ne muove andiamo, babbo. Luca! Illu, sono con fuoco acceso, non posso stare alla radio. Pronto è? Ma Zimino non ce n'è? Se ne arreghi. Ma lassù, mi sa che era che da che entra me lo ordino mi. su 7 chili, per me, a voglia. Ma tutto batte, ma non è troppo. No, siamo in 4, 5 e 6. Passano 5 chili, passano, non 7 chili. Chiatta, da. Con 7 chili mi mangiano dei zibassoni, mi. Se vedo che è troppo, già lo metto nel pozzetto. Al limite tutto non lo faccio. Da che conto, 5 chili mi mangiano per 3 passoni, buh. 7 chili aggiungete, ma io non è che in busso mangiamo bene, io quando mi mangio un 10 pezzi di arricciato, un paio di pezzi di fegato, un paio di pezzi di cori, e insomma, un piatto, ma a me così andava, anche da voi è tutto un resto, cacio, salsiccia, insalata, verdura. E allora, se alzi piccoli tende, Tore, e da voi non magna, poco. Te l'ho detto io. Non è freddo, no. Faccio un burro di sugaggio che si spalma nel pane, quello con i vermi, mi. Buon aretto, Faccio bigliato, c'è ricotta mussa, te lo spi, grazie. Da poi ti mando la foto, ma buona davvero. Guarda, l'ho presa ieri in quel negozietto che c'è lì vicino al Barsanna, di Usilo. Una formetta, me la giovaniata rimane a te. Piccoli tendi, sei da tutta la formetta, una formetta piccola era, cade la mano a bestia, là. Tra io, bavetta e figliura, cazzo, ci avremmo sbranato, adesso che lavora. Ma questa era buona perché non era salata come le solite, era bella affumicata e non è assalata, è spalmabile il burro, mamma mia, buon avvero. Anche questa aveva proprio quel sapore di affumicata, buona, proprio buona, no, non era assalata molto, proprio buona. E ce l'avevo mangiata in tre, a bella da finire, ieri sera e ieri notte, là. E poi mi è rimasto un pezzarito minorito. Ma qui calaggio, proprio che lavora. E poi, quella porta tutto da oggi, nomi. Formaggio, mozzarella, e tutto. Rigotto freco, rigotto muschio, pure la salsiccia c'ha di oggi, è buon avviso. E una abita qua vicino, mi pare mia suocera, una che lavora lì. È tutta roba di Usilo, anche i dolci. Ho preso un vasoio 5 euro, la dice, dammene 5 euro di quei biscotti savoiardi, morbidi, maggio, adesso cantinare voi, sempre roba fatta a Usilo, lui. Ora riprendi. E cosa vuoi che ti dica? Roba da magna. Dimmi roba da magna, tu non le compri cose così. Che le compro? Non ha tanto gli aribiglio. Quelle danno, sono buone. C'è anche quelle olive, quella è tutta roba che preparano loro, però. Il salamuia, di tutti i tipi, un sacco di roba c'è. Già si compra bene, non è cara a cara. Se a comparare, io devo comprare già tutto canto, un bel di cosa, ma è da voi. Ma il fatto lo sai così, che molte volte non sai cosa cucinare, allora comprare tutti i cosi così, li chiedi, e mangi così, capito? Tu ne hai rimasto asciutta, ne so qui altri sempre la stessa cosa, tanto bacio a me, almeno 2-3 volte al mese io faccio così, e se no è sempre la stessa ministra, e così almeno cambio. L'ho detto io, bisogna fare dietta. A voi è va dietta quando crepo, è dietta, che c'è dieta forzata. Andemmo. E poi c'è un tipo no, che ho lavorato con lui quando ero in comune, dell'autoparco, signor Giovanni, c'era un orale oggi di Torre, non l'hai visto? Sì, già. E poi c'è quello, c'è un'altra persona che abita da quelle parti, che c'è nel giornale di oggi. Signor Giovanni, nel giornale di oggi, siete Giumari, 3 giorni fa. La moglie l'ha buccata a ripidare con l'ambulanza e era rimasta semmuto, ma che un reparto è arrivato e non si sa di cosa è muto. Boh, è arrivata l'autopsia e oggi c'erano i funerali. Ah va, la moglie, siccome te la conosce pure mia moglie, che si parla. Già glielo chiede mia moglie a me cosa gli hanno detto, a vedi cosa è muto. Boh, poveraccio, cazzo. Sicuramente infarto si è aggiunto. Sicuramente quello lì. Io ho sentito che gli faceva male. Ah, aveva un'infezione alle vie urinarie, così mi aveva detto la moglie. Era bene la gula, però la freccia in te giù mare, c'è andata l'ambulanza e ce l'hanno imbucciato. Allora non si sa se è molto malissimo. Boh, gli hanno fatto l'autopsia, adesso glielo chiedo alla moglie uno di questi giorni. Sicuramente mi ho sentito bloccare il rene, è durato 3 giorni, a 2 ore. Ho sentito bloccare il rene e non verrà fatta più. Quello che ho pensato io, se era quello, se no è capace di giocare infarto, boh. A chi era? La Varella si tenne, che non gli viene, no, lo dovevano portare da lì alla Stecca Bianca, al reparto. A chi non sta dal Cipolle non ve la rugue, e se non gli viene buffare alla Stecca Bianca, invece è molto gli viene, si tenne quando se non gli viene farà, boh. Grazie. Oggi vi sei, domani no. Lo so, mi anche un altro, prima di questo. La di prima era che vi sono a casa e non chi, con la macchina. Era in casa d'unità che la niente non poteva più guidare, infatti ne hanno impigliato pure la patente. Non lo poteva variare, e sa di asta e fare in macchina. 30 robbia sale di rugrata accesa. Mi rendo faccio, poi c'è una ripidare del muro. Certo, sarai su Mattese, da Rinevi. E se ne è andato. No, chi ci hanno detto che era tutto gli appigliato. Era pieno. Sì, allora, l'hanno fatto bene per venire la patente. Tanto, cosa veniva a fare? Non guida più. Era pieno. Vuol dire che non dobbiamo guidare. E infatti le domande è buttata a ripidare a chi sente giù male del muso. Ed era pieno. Oggi bisogna giorno per giorno contare. E tu se lo vedi un di miscia in macchina, se si apre la brava, buttava la moglie a ripidare. In giro, e un'altra in giro, mi disse, chi sono. E te, assai ben voluto. Beh? Grazie. Ho dei cose, ho dei lampi, ho dei droni. Siamo sempre in chivi. Così, ma te sei un autista. Sempre travagliene, parcheggiava un rimorchio e non c'era cura. Il suo camion ruio che trasportava anche pale meccaniche. E cosa c'è con tutto questo di pensione? È durato 2 mesi del muro. Ha fatto andare in pensione e morirmi. E da cosa? Questo sì che non è da cosa. Ma fa così, a perché a travagliente, Poveraccio, sono così sicuro se era stato rimanendo ancora travagliente, era stato ancora vivo, secondo me. E tu questo lo vedi, ma te se questi 2 mesi che era vivo ancora. Lo vedi andando a dormire con la moglie, la accompagnava la riduttore, mi sta in giro ma te se. E tu è morto. grazie, cosa vuoi fare? Ah, sta bene, la gente sono una. Ma chi tu sei? Buonasera, belli e brutti, buonasera Graziano, buonasera Tole. E buonasera anche gli ascoltoni. Avanti, Bacchisio con la parte là. Buonasera, signor Bacchisio, buonasera a tutti. Ah, che hanno entrato, poi ti ha preso pure a Marino da Tarrega preso, andave. Buonasera signor Bacchisio, ciao Marino. Ciao Tole, ciao Bacchisio, ciao anche Graziano. Ciao Tole, tutti gli ascoltoni, avanti signor Bacchisio. Ehi, buonasera signor Marino, dottor Marino, detto Rosmarino. Ehi, ehi, già ti ascolto, buonasera ancora, vai. Da ora mi ascolti? Ho piazzato quella che ti ho detto, guarda con la commissione che ho dato, poi lo chiami con calma e vedi tu. Bene, avanti da chi si fa girare, Ok, è tutto sistemato, no? Sembra di sì, perché ti ascolto bene. Vediamo un po' se Graziano ti ascolta. Graziano, avanti. Ascolta bene, scusa Graziano. Ma chi sto utilizzando il portatile tipo il tuo gemello che utilizza in macchina, più quella affare che ho sistemato stasera. Ok, avanti, grazie. Eia, ciao Bacchisio, e ciao Marino, ben rientrato. Già stai arrivando bene da me, Mari, tranquillo, sei a bomboletta, anzi ve. Riprendi tu. Agata, che andiamo bene, andiamo. Allora, signor Bacchi, finito avemo basta gira. Eia, fai casino, abbiamo finito, allora ci vedo domani, se tutto va bene, se no, pazienza. Non bisogna prendere il tempo come viene. Ok, allora, dato la questione a Antonello. Ok, io Bacchi, tutto ok, gli ho data e gli ho detto, controlla, poi ti chiama il proprietario. Mi ha detto, ok, non c'è problema. Ascolta, chi è che ha la 27 acceso su 23? Tore, ce l'hai acceso? Sì che ce l'ho acceso. Chiama e io ti rispondo. Bacchi, è oggi zappizzato. Allora, Grazia, cosa mi dici? Tutta la lì oggi in campagna a dirigere lavori. Ah, tagliata l'erba? L'operaio l'ha tagliata, io ho fatto il dirigente. Hai fatto bene, Grazia, dirigi tu sempre. E se funziona male, mandala via, licenzialo subito. Ma di posto una poltrona, è abusata da equipi da zia le direttive. Capito, pusato e dirigente dei travagli, andavè, oggi la metà dici così a me in campagna. Bene, proprio questa sta zia oggi, ha mandato un video a Gian Maria, lo figlia e tu, ti va via il personale, io facevo il dirigente pusato in poltrona, sotto controllo. Tu sei uno schiavista, bravo Grazia, sei schiavista, metti le donne a lavorare e tu pusata contro là, non andare così, no. Scusa, la femmina ha voluto parità di diritto, allora si vuole parità di diritto, travaglia come te l'uomo. Ah, così è, hai capito, ma chi? Ha ragione Graziano, parità dunque deve lavorare come l'uomo, Hai voluto la parità, vai, lavora, schiavo anche tu, come l'uomo. Avanti, signor To. Andiamo, Tore, che ha avuto la sedia. Tore! Ja, sono qua, datemi il tempo, no? Ah, qui il tempo non abbiamo. Hai visto che è successo con l'amico di Graziano vicino a lui? Boh, manco pensione sta goduta. Dunque bisogna schiacciare veloce. Vabbè, catta, non lo gioco. Andave. Grazie, ripiglia a dira. Eia! Mari, dove lavoravo io nella fabbrica, ci lavoravano anche dopo. Una lì arrivi giù un rimorchio a caricare sacchi di plastica, erano sacchi da 25 kg, però quando la sera te ne troncava la china. Sono cazzato a Rubiano di Rivemme, la giugiava della città, io venite con me dove venite che c'è la sorpresa. La città io, non avete voluto la parità di diritto, non pigli rimasto se ne hai più. E comincia a carrare sacchetti. L'ha fatto fare un culo a tutti i gatti. Grazie. Graziano era tremendo, alle femmine a fare. Quando fai così non è venuto che fammi. Ehi, ci battavano loro, no? A chi? Noi dobbiamo impigliare più di essi. Allora canti voi, canti migliori. Allora travaglia come ti travaglio io. È così, eh. È così. Solo vedi, una cosa, un mestiere che non sono state, non ci sono donne, è il mestiere che fa malino, non fa una femmina. Sì, che c'è la donna, già c'è Grazia, ma otto pacchi, già c'è, sì, già è entrata una, e non fa nulla, è la più madrona che v'è. Quella bionda stai dicendo, Marino. Marino si è scaricata la batteria, minimo. Minimo c'è la batteria scarica. Oh, già c'è una donna, e perlomeno io ne ho visto una bionda. Abita anche vicino a te, quasi, oh, grazie. Quasi abita vicino a te. Ecco, bionda mi sembra che, così, già lo so che abita vicino a me. Direttore, già abbiamo parlato l'altro giorno, direttore abita vicino a te. E lei abita l'altra parte, vicino a nonna Isa. C'era il marito era morto e così via, in terra età. Ah, eia, sì, il marito è morto, è entrata lì a posto del marito. Sì, anche se non va bene, perché ha rubato il posto altre persone che c'erano prima di lei. Siccome è morta altra gente, è morta, e non è arrivato a entrare nessuno. Questa qua chissà come è entrata. Vabbè, comunque non mi interessa, non la pago io. Bene, avanti, Tore. Andiamo bene. Ma lo sai, no, se sei roba bisante non te ne va, te ne vedi. Grazie. E cosa? E a caricare un rimorchio, i sacchi, ne ha già fatti 30 anni, hai compreso. Non pigli rimasto a sedina che pigli, era disperni talmente tanto casino, allora vieni a scaricare anche voi. Pedala! Contento, Edo, eh? Mari, contento, Graziano! Hai voluto la bicicletta, pedala, e ha fatto bene, avanti, Bacchì. Ehi, Graziano, mandamene uno a me in campagna a lavorare, che la metto a zappare e io mi siedo. Ehi! Ma bisogna trovarla però prima, Bacchì. Comunque, a me tutti due che arrivi a un rimorchio, gli dizia, dalla di prima vi dizia, mica domani c'è la plastica da scaricare, ti dici in forma, non fai di vista, saluti, a chi domani li vedi travagliare. Poi domani arriva la plastica, ci sono da scaricare un rimorchio qua, e l'altro rimorchio giù in falegnameria, dunque, tiritevi voci. Ma non sono fuggiti, grazie. Da chi, o no? No, una se n'è andata in pensione, e l'altra, adesso c'è ancora. È passata part-time. Un attimo che volevo entrare. No, ho detto, quanto pesa un sacco di quella plastica? 25, pare il riso e a granuli. Però quando a caricare un rimorchio, lo sai che andare la sera, come ti va il lanche, e i brazzi? Truncati! Buonasera, avanti chi vuole entrare? Buonasera, dottore, buonasera a tutti. Ben tratto, signor. Guarda che c'è Bacchisi, Antonello, avanti. Ehi, salutiamo Antonello, ciao Antonello, buonasera, bene scusate. E perché stai arrivando così forte? Mi sei messo a casa. Cos'è che è successo? No, io ho toccato niente, la casa di Marino stasera, a meno che non si è bloccata l'antena da sola. Forte. Hai visto lei quel trapiccolo, Marino? Va, Antonello. Sì, l'ho visto, la taxi l'ho visto, non funziona. Gli ho messo le batterie, ma non riesco a fare nulla. Non mi comanda la tastiera, bisogna che lo apro. La mattina e li pulisco la tastiera. Non so cosa sia, non si sente. In cuffie lo sentivo poco, ma in lontananza. Così con l'autoparlante esterno non si sente un H. Capito? L'ho valutato che rimane basso come cosa, però rimane bloccato in memoria, non riesco a sbloccarlo. È come se ci fosse la tastiera bloccata. tutti i pulsanti approvato. Non sblocca un accidente proprio. Evidentemente c'è le... c'è da sbloccare direttamente dalla tastiera il volume, capito? Non lo so, se vuoi le istruzioni ce le ho, il libretto delle istruzioni ce l'ho, se ti serve. Vabbè, non c'è problema, se me lo porti, anzi è meglio, così almeno mi viene più facile. Dai, lo cerco adesso, ma devo avere un cassetto. Devo averlo in un cassetto, oppure dentro la scatola sua. Perché c'è anche un'altra antenna, quella è l'antenna del VHF. Poi c'è l'antenna per le cose, per la M. Sì, vabbè, c'è un'antenna che fa VU, quindi non è quello il problema. Tanto attacco il BNC. Hai capito? Per quello diciamo ci sono problemi. Procurami le istruzioni così faccio più in fretta a sistemarlo. Mari, vuoi provare un attimino sul canale 5 in 27? Vai 27 del 15 col coso, con l'apparecchio di casa, così vediamo come esce. Ok, dammi un controllo adesso con questa antenna invece. Fondo scala, sì. Fondo scala. Sto utilizzando l'apparecchio là e l'antenna quella che ho messo stasera, va bene, va. Ok, scusate, arrivo subito, vai. Ehi, Mari, già siamo in Italia. Avanti, to. Signor Bacchi, andemmo, beh, andemmo, bu, mi ha raffreddo, rega. Ah, l'ho già passato io, Tore, io l'ho già passato il raffreddore, te ne giro. Mi sembra che chiudo io, non sia che tu mi mandi un po' di raffreddore via micro. Grazie, bisogna stare attenti con Tore adesso, io ti mando un po' di raffreddore, ti manda. Tore, pure ti ripeto a moglie, vedi che ti passa. Sì, a subito, non faccio altro. Bisogna che mi scendi. Poi li culeva a 80 gradi e si chiudi tre pugni di sale grosso. Beh, anda, Bacchi. Ehi, grazie, ma vuoi va più fredda, ghiacciata, vuoi va ghiacciata. Ah, già è vero, bella fredda. Si muore un poco di gubbetti da un frigorifero di ghiaccio. Così diventa da brescia. Niente, Bacchi, chiatta, bubu. Andiamo bene, ci ha aiutato, ti ammazza subito. Tore, mi ha schiacciato Bacchi, l'hai ucciso. Signor Bacchi, non entri sotto. Ma cosa vedi, Rudy, tu? A mezza parte, tutto di te due schiacciati. Chi vuole provare a schiacciarmi, Grazia, capito hai? A chi fa un raffreddore? Tore, intendi, inteso hai? Ha inteso, sì. Certo che andiamo bene, andiamo. Ciao Bacchi, se tu andi sotto io non lo gioco, io non ti becco. No, io gioco sempre sopra, tu sei sotto. E che cazzo male che su che sotto, non è così, Grazia? Ma allora la prima schiacciata senti il vattore. E a te senti qui, così. La seconda volta era di tutti e due, comprendiamo né una né all'altro. Tore è forte, se posso ripeti a muglio, cruzare grosso, e leva ghiacciata, e poi se scendevo sui forti. No, l'ha già giunta, appena la zeta ha già giunto. Andavi! Ma mi sa che sarro, le 8:05 quasi, mi devo fare insulina. Veglia, va bene, là, io vi saluto, ciao Tore, ciao Bacchisio, ciao Marino, ciao Antonello e ciao Gio Maria che nascolta e ciao Luca che sta arrostendo alette di pollo e coccette di pollo. Riprendo io, ciao Graziano, buona serata, grazie delle quattro chiacchiere, saluta la signora, a domani si concise. Stammi bene, buonanotte ancora Graziano, avanti Tore. Sì, ok, ciao Graziano, stammi bene, a domani se tutto andrà bene, ok. Riprendi signor Marino. Tore, l'unda deve fare domani. Dobbiamo giocare a pallone domani. No, si non barricava a tagliare Elma. Elma? Ehi, vabbè, ciao Marì, che sto chiudendo, a domani. ce la risentiamo, ciao! Ciao, grazie, ben sentito, saluto lì in casa, va. Domani si coincide. Buona cena per stanotte, avanti, va chi? Ehi, ho salutato Graziano già, dunque a posto. Sole, avanti, riprenditela. Sì, anda, beh, anda. Anthony! Sì, sono entrato, stavo facendo le prove con... e gli ho sistemato l'antenna in 27. Dimmi tutto, Salvatore. Io già ti devo dire, io da Giugiamalba per riprendere, anda, beh. Allora, signor Bacchi. Anda. Ehi, e cosa c'aveva Antonella, l'antenna di Marino? La massa gli mancava? La massa si era rigenita, aveva già buttato una bella passata di vasellina stasera, è pulito bene, capito? Adesso è a posto, è perfetta quell'antenna, un metro di stazionale e un bijou. Allora sì, allora è sistemato Marino, va, meno male, perché se no Marino non lo sarà fatto, ha pigliato il segreto e l'aveva fatto a pezzi. Minimo, ci stavo già, ci stavo qua, l'intenzione era quella, mi bacchì. Operazione volevi fare, ma pitina. Grazie maestro Antonello che mette a posto le cose. Abbiamo utilizzato un po' di vasellina, quella che usa Tore, vero To? Fatto bene, ah ma così, la puoi idratare. Esatto, adesso è tutto sistemato, tutto a posto. Avanti Antonello. Allora, io una volta, tanto tempo fa, mi avevo installato l'antenna a Manuela, che parlava su al monte, avevo comprato tutti i tubetti di vasellina, quella della farmacia mi fa, cosa gli servono? Gli ho detto, non certo per mettermela in culo, gli ho detto, mi servono per installare le antenne, ah, per quello gli servono, mi ha detto, allora per che cosa? Gli ho detto, ma quando mi ha detto, meglio non mettermi tutti i tubetti di vasellina, detto, per il culo, gli ho detto. Gira non l'hai mai usato, no Antonio? E lo credo proprio, c'è lo insieme che risparmia, quello che si usa per la macchina, per la macchina diesel, come si chiama quello di olio di colza? Ah, quello li usi? Allora, quello sai come scivola, lo usano per le macchine diesel, capito, per risparmiare. Avanti da chi? E beh, ci date là l'antenna, Marì, dove sei andato adesso? Sto usando questa qua, sto usando quella che ho girato, verso Monteo l'ho piantata, Antonio, ma chi? E la sto utilizzando adesso. Fondo scala, Simi, fondo scala. Adesso sto utilizzando l'apparecchio, il gemello tuo, quello che abbiamo preso da tuo cugino. E invece poc'anzi sta utilizzando l'altro che tu utilizzi in macchina. Ho capito. A me mi sembra che quei due lì siano più forti di questo che ho io in stazione fissa. Ci hanno più potenza. Probabile, questi me li aveva dati Antonello, questi due. E vanno bene, uno le tengo in macchina e uno è qua. Sono quei due che dovevo dare a quella persona, invece non abbiamo più vista e non glielo neanche. Rimangono qui, già va bene qua adesso, dai. Va bene, tienili tu. Già si affaccia quella persona, sta tranquillo. Ancora qualche mese, poi già si affaccia. Oh, ai Gandarini. Oh, ai Gandarini. Quando c'è la processione. Mai. Bene, bene. Avanti, c'è Antonello. E quelli così... come si chiama? I Bofeng, gli 888, ce li ha... i cinesi ce li ha. Lì c'è l'ovvero, costano. L'uno. Qui la coppia, fate i conti, sono sempre a 44 euro. La frequenza che hanno impostato è 462-125, quindi figurati tu, per fargli l'impostazione del PMR eccetera eccetera bisogna che li porti a Tore e Tore il programma. Io l'ho preso infatti dai cinesi, ne ho preso due, uno dal mio genero e uno ce l'ho io, 19, no, non l'ho pagato 19, di meno l'ho pagato. Perché veniva 36 la confezione, quelli doppi, però quelli li avevo già terminati e ce ne ho solo due sfarfagliati. Ho capito, ma comunque io l'ho pagato 15 euro qui in via Napoli, quelli che ho dato a Marino, sono gli 888. La frequenza originale sua era 462-125, gli avevo fatto sentire stasera, in pratica sarebbe quella che usavano i cinesi loro. poi lì a fianco a Centromercato li ho visti stasera, ce ne sono almeno una ventina di pacchi di quelli 888. Non ho guardato il prezzo, ma l'altra volta c'era GY, non mi ricordo come, ma sono precisi, se non cambia niente. La coppia era 19,1 li volevano, infatti li ha presi il Pinuccetto e se li ha portati lì a, cosa, a casa sua. Ma c'è anche le antenne, se tu hai notato lì sopra le radio, ci sono le antenne, le cose di bazooka. No, no, non ci ho fatto caso, no, ho visto, stasera ho visto l'antenna per il wifi, 20 euro, solo che voleva agganciare al router e poi c'era un giro, stava da fare, ho preso, non l'ho preso più, mi sono preso un alimentatore a 50 ampere, capito, ci devo andare a 50 ampere di alimentatore, è scatolato, me l'ho preso di riserva. Arrivati sono quelli da 50? Sì, sì, ce l'ho io, ce l'ho. Allora ci vado, domani me lo compro. Però sto facendo collezione di alimentatori da 5, 10, 15, 20, 30, 50. Questa 50 mi interessa. Penso mi stasera un marino, quello da 50, c'ho anche quello da 20. Ne ho due, uno ce mi fila dentro a un coso, una scatola che ho io, scatola metallica. E stacco il compressore che c'è dentro e ci infilo l'alimentatore col baracchino, capito? Faccio fare il taglio da un amico Fabio, faccio fare giusto da infilarci l'A8720. Dietro quei coperchi l'A87 le faccio spuntare proprio solo la mascherina filo proprio. Dopodiché a fianco ci metto l'alimentatore e così mi faccio il baracchino direttamente a 220. Poi quando voglio prendo e gli aggancio un lineare dentro. Uno di qui, boh, un bremi, quello che mi capita, capito? Almeno esce 100 watt e faccio un bel apparato senza le basi, mi faccio. No, io non ci ho messo piccati, due dentro la carrozzeria di un lineare, cioè un lineare da 1000 watt. E ci ho ficcato lì dentro, mi ho trovato tutto, via, ci ho portato via tutto, valvolette, mi sono le valvole da te. E via, e ci ho portato via tutto, ci ho messo due alimentatori dentro, ed è tutto ritirato, capito? È tutto ritirato. Però cosa volevo dire? Chiedere qualcosa? Ecco, ma ci puoi anche mettere un lineare, quello. Basta che buscati per dire un 550, ce lo infili dentro. E ti fai lineare senza le basi, non è che ci voglia molto, il vatte metterò già, già ce l'ho io, faccio altro che fargli il buco per infilarci lo strumento, l'uscita col sensore e mi faccio come si dice, il BV2002, quello da casa, a 220, direttamente alimentato con l'alimentatore da 50 ampere, a voglia. Basta buscare un 550, già si buscano. E anche chiedo, se trovo Andrea Maricco me lo faccio dare. Tanto ce l'ha buttata a casa sua lui. Capito? Quindi mi faccio lineare, stato le basi mi faccio. Almeno ho 700 watt tondi e tondi. Andrà bene, vedo. Va bene, dai, io vi devo lasciare perché è arrivata l'ora della mala sorte. Bene, ciao Marino, buona serata, saluto in casa, a domani se coincide ce la sentiamo, ce la chiacchieriamo, ce la vediamo. Ide con le patatine, con Tore, ciao Tom, salutissimi, sono la signora e a domani tutto va bene. Ciao Antone, salutissimi anche per te, grazie di tutto per ora, poi ci vediamo più in là. Ehi, d'accordo, non c'è problema. Ciao Bacchi, ci sentiamo, stiamo bene, buonanotte e buon tutto. Che ne prendo io che mi sta chiamando mio nipote, poi magari entro più tardi. Ok, ciao Bacchi, ben sentito, saluto in casa, a domani se coincide, ciao Tore, ciao anche Antonello e io chiudo che mi sta chiamando, ve l'ho detto, mio nipote. Avanti Antonello. Ciao, ma ci sentiamo, visto che avevo ragione io, puntando a Monteoro esce molto più forte di dove avevi puntato tu. Tutta un'altra cosa, è un domani che buschi il motore, capito? La piazzi in un paletto, isolata, e la metti in orizzontale, la fai girare, dove senti i segnali, prendi e parli. Ok, faremo così, tanto il paletto ce l'ho già, ci vuole un altro tubo a metterlo in quel paletto che hai visto, che senza, e si attacca il motore. Ok, nuovamente avanti Vittore, io sto chiudendo, dai. Sì, ok, ciao Mari, ciao Bacchisio, a domani se ci sentiamo. Oh, Antonio, anch'io sto chiudendo, che è venuta gente. Ci sentiamo, ok, ciao. E ciao a tutti, allora, ci sentiamo domani, là. Buona cena, buonanotte, buon tutto, e domani mattina, domani sera, non c'è problema. Ok, ciao Antonio, ciao. E ciao.